si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare insieme fino alle 11 tutta la mattina, un'occhiata tra pochissimo alle prime pagine dei giornali. Cominciamo bene subito con un calo di voce, oggi a Milano Monterosa però sole pieno, bellissimo, quindi si annuncia una giornata splendida. Un'occhiata, dicevamo, alle prime pagine dei giornali, poi per chi non avesse già sentito la rassegna stampa più approfondita fatta dalla nostra Giulia Crivelli, e poi insomma i nostri approfondimenti, le buone notizie, apriremo il numero verde, parleremo subito di un argomento dopo il giornale radio delle 9, però di un argomento legato alla lotta alla corruzione, con una notizia che insomma piacerà ad alcuni, farà arrabbiare altri. Parliamo dell'arrivo della soffiata nella pubblica amministrazione, la possibilità in particolare nell'Agenzia delle Entrate di fare denunce in forma anonima da parte dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate per segnalare cose strane che poi insomma i dirigenti dell'Agenzia delle Entrate valuteranno, che ne so, il collega d'ufficio che timbra il cartellino in modo strano, oppure fascicoli, pratiche che non si chiudono mai, oppure regali che arrivano in ufficio e non dovrebbero arrivare. Tutto questo servirà a diminuire e a prevenire la corruzione nell'Agenzia delle Entrate. Può non far piacere l'idea di vivere in un paese di spioni, ma insomma prendetevela con chi fa il furbo e ci ha portato fino a questo punto. Di tutto questo parleremo dopo appunto il giornale radio delle 9. Adesso cominciamo con i giornali, però subito anche i nostri contatti se volete interagire in tempo reale con noi: la pagina Facebook Si può fare trattino radio 24, l'account di Twitter per dialogare in tempo reale chiocciola Si può fare 24, il mio account personale chiocciola Ale Maurizi. Vai, cominciamo. Eccoci qua, e allora insomma giornali un po' in ordine sparso oggi perché non ci sono titoli fortissimi. L'America che con Obama celebra i diritti civili degli afroamericani, poi insomma un po' di titoli di politica e di economia. L'intervista per esempio al ministro delle finanze greco Varoufakis da parte del Corriere della Sera, che è il titolo, uno dei titoli principali in prima pagina. Varoufakis: se Bruxelles non dice sì, siamo pronti a un referendum sull'euro. Domani l'Eurogruppo valuta la lettera di intenti spedita dallo stesso Varoufakis, insomma il piano di riforme proposto da Atene, e quindi domani un countdown importante sul quale il ministro greco mette insomma lì una minaccia: o ci dite sì o facciamo un referendum per uscire dall'euro. Insomma, del resto i greci hanno votato per questo solo poche settimane fa, quindi c'è ancora una pressione popolare, un'aspettativa. L'altro titolo, prima di iniziare con Varoufakis, riguarda invece l'Italia, il caso dei dirigenti pubblici, scrive il Corriere. Il governo propone il ricambio con assunzioni esterne, ma frenano il TAR e la Corte dei Conti. Succede che la delega sulla pubblica amministrazione arriva in aula al Senato, si pronuncia lo scontro su due nodi principali: la licenziabilità dei dirigenti e anche la possibilità di assumerne però di dirigenti dall'esterno, effetto combinato del decreto Madia e anche della riforma in arrivo. Però sindacati e Corte dei Conti contrastano questa riforma. Dicevamo dell'America, la fotonotizia: Obama che si dà il 5 con un bambino di colore, questa è la scelta del Corriere. 50 anni dopo Selma, Obama, la marcia non è finita. Così ieri il presidente americano ha celebrato a Selma, Alabama, il 50° anniversario della marcia per i diritti degli afroamericani organizzata da Martin Luther King. Ah, però adesso arriviamo al piatto forte: Varoufakis, il ministro che va in giro con una camicia firmata, credo, non so se di uno stilista italiano addirittura, così mi ha detto qualcuno, ma non mi sono interessato più di tanto, però è un personaggio sicuramente Varoufakis. Infatti il Corriere gli dedica una carrellata di foto riprese dal web nel quale lui assume i panni prima di Bruce Willis, poi di altri personaggi, Star Trek, insomma un look che spacca, quello di Varoufakis, che dice così. Però allora Intanto sull'emergenza greca, a che punto è l'emergenza greca? Dice: il denaro per pagare pensioni e salari ce l'abbiamo, non è necessario un nuovo prestito, vogliamo uscire dalla logica del prestito e delle riforme da rispettare. Anzi, vogliamo introdurre un contratto per la crescita che contenga anche dentro un piano di investimenti. Quindi non solo, diciamo, tagli alla spesa, ma investimenti, e anche una ristrutturazione del debito. Ma mi fanno notare, l'Eurogruppo l'ha esclusa più volte, la Troica, insomma, nessuno vuole ristrutturare il debito greco. E Varoufakis risponde candidamente, dice: sì, però ci propongono di allungare le scadenze dei rimborsi e una diminuzione dei tassi di interesse. Lei come lo chiama questo? Ristrutturazione. Ma veniamo al capitolo investimenti. C'è un enorme lago di liquidità in Europa, dice Varoufakis. La Banca Europea per gli Investimenti, in particolare la BEI, può emettere grandi quantità di bond, raccogliere capitali tra gli investitori, impiegarli in buoni progetti. Pensa a anche di sostituire il debito con titoli legati alla crescita nominale. Se l'economia greca cresce, allora ti rimborsiamo bene. Se l'economia greca non cresce, non ti rimborsiamo per niente. E questa è la scommessa di Varoufakis, che poi... cos'altro dice? Vediamo un po'. Il rapporto con Mario Draghi, un rapporto formale. In che senso? La BCE è disciplinata nei confronti della Grecia, disciplinante nei confronti della Grecia, però solo 3 anni fa, con un governo conservatore, furono molto flessibili nell'emissione di titoli a breve termine. Con noi, invece, che siamo di sinistra, ha molto ridotto la nostra agibilità. Quindi una stoccata di Varoufakis anche a Draghi. Lasciamo il Corriere, andiamo su questi argomenti sul Sole 24 Ore, che dice così: ci ricorda che domani parte il quantitative easing proprio di Mario Draghi, che punterebbe però sulla massima flessibilità, in questo caso per quanto riguarda le scadenze e la quantità anche dei titoli. Si parte con acquisti di titoli di Stato dei paesi dell'area euro con un massimo fino a 60 miliardi di euro al mese. Il famoso bazooka di Draghi scatta, parte domani, vedremo quali ripercussioni, che ricadute avrà proprio sull'economia, sui tassi di cambio e un po' su tutto lo scenario globale. Andiamo invece su Repubblica, dove la foto è dedicata a Obama, che è appunto in marcia con gli afroamericani, abbiamo già detto. Però poi c'è anche la notizia: la polizia uccide un nero nel giorno di Selma, Obama non è finita. La polizia che ha ucciso un nero disarmato e proprio nel giorno in cui gli afroamericani marciavano a Selma. Però c'è un altro argomento che affronta Repubblica, è un argomento interno di politica interna, e insomma, secondo Repubblica siamo agli sgoccioli tra Tosi e Salvini. Non so quanti saranno già stufati di questa mini telenovela in salsa leghista, però insomma la politica è fatta anche di queste cose. Poi gli elettori è giusto che sappiano. Tosi: potrebbero essere le ultime 24 ore da leghista, alla mezzanotte di domani scade l'ultimatum federale. Tosi deve scegliere se restare, dovrebbe però chiudere la sua fondazione che ha lanciato solo 2 o 3 anni fa, quando pensava di essere il candidato leader del centrodestra in pectore con la maglia della Lega, e invece adesso le cose sono cambiate. A candidarsi sarà Salvini nell'area del centrodestra. Tosi, se vuole candidarsi, potrà candidarsi per le regionali tutto al più, ma neanche in questo caso con l'appoggio della Lega, che invece sosterrà Zaia. Ci sono 3 consiglieri regionali in Veneto pronti a seguire Tosi, questa è la notizia. L'altra è che ci sono 5 parlamentari minimo, scrive Repubblica, pronti a seguire la scissione di Tosi nella Lega. 5 non impensieriscono Salvini, che pure i parlamentari non ne ha tantissimi. Se dovessero essere più di 5, un mini tsunami, allora potrebbero esserci problemi anche per il gruppo parlamentare per la Lega, perché sotto certi limiti il gruppo salta. Però Salvini, che ieri era a Genova a una manifestazione elettorale, ha detto: si candida Tosi contro Zaia, auguri, non c'è nessun problema. Per quanto riguarda poi i numeri per i gruppi in Parlamento, Salvini ostenta ottimismo. Curiosità: ieri a Genova Salvini, a questa manifestazione per le elezioni regionali, in Liguria si gioca una partita nazionale, se la Lega vincerà con il suo presidente Renzi se ne andrà a casa, ha detto il candidato è Rixi. La manifestazione si svolgeva al Teatro della Gioventù, di fronte al teatro, al bar Balilla. Chi c'era alla cassa ad accogliere i clienti? L'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito, attualmente a processo per lo scandalo dei fondi della Lega Nord. E questo, insomma, stava lì al bar ad accogliere i clienti, così scrive Repubblica. La Stampa, con un'altra intervista al sottosegretario al governo Delrio, che lancia la scommessa per il Mezzogiorno e dice: Sud, la scommessa del governo, 9 miliardi per rilanciarlo. Questa intervista dove, insomma, si fa un po' il punto sull'azione del governo e è su questo piano per il Mezzogiorno. Scommettiamo tutto sul Sud e sui giovani, dice Delrio in questa intervista. Siamo sicuri che il Jobs Act spiegherà le sue potenzialità molto presto. Se ci fossero 150.000 occupati, come ha detto Poletti, sarebbe un risultato importante. Le imprese non hanno più alibi, le abbiamo messo in grado di competere. Poi, al di là del tema del Mezzogiorno, la domanda sul reddito minimo, voluta, insomma, lanciata da Grillo con Sinistra, Ecologia e Libertà, alleato a livello locale del PD in tutta Italia, con cui il dialogo a livello nazionale è più faticoso. Cosa ne pensate? Ce ne sarebbe bisogno, dice Delrio. Il Parlamento discuterà, ma è una cosa complessa, non si possono mettere lì soltanto miliardi di euro. Bisogna studiare un sistema, capire bene la platea dei beneficiari, eccetera. Certo, se lei mi chiede, questa è una missione, un messaggio di Delrio, che del resto, insomma, copre un po' a sinistra il governo Renzi, se lei mi chiede di quale misura andrei più orgoglioso, certamente dotare l'Italia di uno strumento di protezione per i poveri, che è appunto il reddito minimo di cittadinanza, empatica, di cui parla Grillo. Però la Stampa ci ricorda anche l'operazione TFR in busta paga, come sta andando. Se ne è parlato molto, vi ricorderete, sta andando così, cioè male, nel senso che sta andando che soltanto fino adesso 6 lavoratori su 100, 6 su 100 hanno optato per l'incasso. Lo rivela una indagine fatta dalla FIBA CISL, i bancari della CISL, proprio per la Stampa. Ma qual è il problema? È che la gente si è fatta i conti. Allora, sentite qua, per un lavoratore in 3 anni in media si possono perdere, optando per il TFR in busta paga, cioè per avere subito un pochino più di soldini, fino a 10.000 euro in 3 anni. Chiaramente non conviene, perché non è che il TFR siano centinaia di migliaia di euro, sono pochi spiccioli, e quindi se ne perdi 10.000 euro in 3 anni, il problema è la tassazione, no? Sapete, quindi la differenza tra tenerlo in busta paga e metterlo invece in azienda non è tassato, in busta paga sì. E quindi prendete un lavoratore di 25 anni con una retribuzione di annuale lorda di 25.000 euro, la differenza può essere di 5.000 euro in meno se prendi il TFR in busta paga, ma se lo metti addirittura in un fondo pensione la differenza è negativa di 10.000 euro. E questo solo in 3 anni. Questi sono i calcoli abbastanza sconvolgenti, secondo me, che fa la CISL per la Stampa. Il Fatto Quotidiano con un'altra notizia, prima di chiudere per il traffico: l'affittopoli di Banca Italia. La banca centrale ha 1,5 miliardi di immobili che rendono solo il 2% all'anno, poco più di un bot, perché li affitta a prezzi bassi ai dirigenti, ai soliti noti, ai soliti inquilini eccellenti, dalla presidente della RAI Tarantola a Maurizio Sacconi, che hanno evidentemente appartamenti della banca centrale in affitto a prezzi bassi, troppo bassi, dice il Fatto Quotidiano. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Si può fare. Il momento di andare sull'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale, e di ritrovare Armando Massarenti, che ne è curatore, responsabile e direttore. Ciao Armando, buona domenica. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, oggi inevitabilmente si parla anche di donne. Si parla molto di donne in questo numero, a partire da una copertina di Gianfranco Ravasi, che parla di una di un'opera molto molto singolare ma molto molto interessante, che sono i Vangeli. Uno dice: ma che opera nuova! In effetti sì, sono un'opera molto originale in questa versione dell'editore Ancora, di cui parla Ravasi, perché è interamente appunto curata da donne. Sono i quattro Vangeli, diciamo chi sono queste quattro donne, così che hanno fatto un'esegesi nuova, molto originale e molto lodata anche dal cardinale Ravasi: Rosalba Manes, Annalisa Guida, Rosanna Virgili, Marida Nicolacci. Ecco, per le edizioni Ancora, i Vangeli, e abbiamo fatto un titolo e anche l'immagine molto evocativa: Profumo di donna nei Vangeli, perché noi abbiamo appunto un'esegesi fatta anche di una certa così spigliatezza nel modo di titolare, di sottotitolare le singole parti della vita di Gesù, e poi va considerato il fatto che, come noto, insomma, a parte della presenza molto intensa della madre di Gesù Maria, la vicenda del Cristo è costellata da figure femminili di varia natura, insomma, madri, suocere, figlie ebree, straniere, prostitute e borghesi, e l'immagine che abbiamo trovato è proprio quella del Profumo di donna, appunto, che è, ricorderete, un vecchio film di Dino Risi del 1974, poi anche rifatto tra l'altro da Al Pacino nel 92. Un'immagine molto bella di Gassman, che è sì, da quella foto della copertina di oggi, certo. Questa storia di questo non vedente che appunto ha delle, comunque una serie di vicende, appunto, e il titolo della vicenda, appunto, Profumo di donna, usato dalle nostre curatrici appunto per un capitoletto. Poi abbiamo pagine interne, almeno due ne vorrei citare: una con l'intervista di Renato Di Caro a Luciana Castellina, che appunto che ha fatto molte lotte per l'emancipazione femminile, quella di Cristina Battocletti con Aida Bejic, poi altri interventi di Lucetta Scarafia e di Nicola Vassallo sul femminismo di orientamento cattolico, cioè su come o teologico. Lucetta Scarafia parla di una studiosa francese, Nicola Vassallo di una studiosa americana. Sebastiano Maffettone, che fa il punto della primavera araba e dei diritti delle donne, e Giorgio Dell'Arti, che ci fa vedere una serie di fatti e di numeri, di cifre che riguardano appunto il mondo femminile. Detto questo, in questo numero poi abbiamo tante altre cose, naturalmente. Abbiamo per esempio che vanno poi dalla letteratura, Sepulveda con il suo ultimo libro, che è una raccolta di racconti. Lui sarà presente peraltro a Libri Come, questa rassegna di Roma. Sì. L'America Latina in volo, il titolo di questa pagina. Sì, esatto, c'è anche una poesia inedita che noi pubblichiamo, sempre di Sepulveda, e che sarà anche a un altro festival, che è il Festival Dedica di Pordenone. Poi abbiamo un ritratto, no, tra l'altro, tornando a Libri Come, ci sarà una serie di interventi che riguardano la scuola, lezioni di vari personaggi che parleranno di come si insegna a scuola diverse materie. Io vorrei sottolineare un articolo tra i tanti, sì, che continua nella nostra battaglia per l'argomentazione a scuola, per legare la cittadinanza, la nozione di cittadinanza, anche non necessariamente l'insegnamento di quella cittadinanza e costituzione, ma in generale appunto la formazione della cittadinanza. Abbiamo uno dei maggiori italianisti, tra l'altro autore di un manuale molto importante, Luca Serianni, che appunto in un articolo molto breve, ma ci fa capire quanto è importante che un ragazzo a 18 anni abbia alcune competenze che lui descrive di tipo logico, di tipo argomentativo, anche solo se deve argomentare di calcio, insomma, o di quello che gli pare, ma deve appunto avere... Ce non importa il contenuto, ma gli strumenti esatto, ci devono essere. Gli strumenti, certo, ci devono essere. Tra l'altro è molto bello l'incipit di Luca Serianni, dice: sa le regole ma non le sa applicare. Questa frase, pronunciata da un insegnante, da un alunno in prima persona, come ingenua autogiustificazione, studiare o studiato anche se non ho capito niente, rappresenta un evidente smacco dal punto di vista educativo. In qualsiasi disciplina, dalla geometria euclidea al diritto processuale, l'importante non è memorizzare definizioni inerti, ma acquisire un abito mentale che permetta di interpretare in base ad un modello, ad una teoria, ciò che magari per la prima volta si presenta alla nostra attenzione. Poi spiega appunto i trucchi anche retorici di paroline come infatti, dunque, che servono a puntellare le nostre argomentazioni. Quindi insomma dei saperi di base purtroppo non sufficientemente consolidati nella nostra scuola, però lasciami dire altri articoli. Dobbiamo salutarci, Armando, mi spiace, non abbiamo moltissimo tempo oggi, la pubblicità è un po' più invadente. Sentiamo domenica prossima, grazie mille Armando Massarenti con il domenicale. Noi invece con Si può fare ci ritroviamo naturalmente dopo il giornale radio, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, il numero verde per cominciare. Fin da subito potete prenotare il vostro intervento in diretta. Tra poco, dopo il traffico, torniamo, parleremo della soffiata nell'agenzia delle entrate, la possibilità cioè di denunciare in forma anonima comportamenti sospetti da parte dei colleghi. Un nuovo strumento di cui si è dotata l'agenzia delle entrate, ma anche diverse pubbliche amministrazioni, per spingere sul fronte della lotta alla corruzione. Ne parleremo per quanto riguarda il Comune di Milano, che ha già introdotto questo strumento dal mese di gennaio. Vedremo quante denunce, quante cose sono già emerse. Questo tra l'altro importante comune italiano. Poi giocheremo il personaggio della settimana in associazione anche questa volta con i comuni virtuosi, che mettono a disposizione il premio. Tutti i dettagli sul personaggio, il primo indizio e anche su quale sarà il premio di oggi, tra poco, dopo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Qua, buongiorno di nuovo, ben ritrovati da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo numerosi. E tanti auguri a tutte le donne, oggi festa della donna, 8 marzo, l'avrai già detto, vero? L'avevi già detto? No, non avevo detto molto, a dir la verità. Era meglio che lo dicessi tu, invece lo dico io e ne sono felicissimo di fare gli auguri a tutte le donne. Ma d'Italia e non d'Italia. La festa della donna è in tutto il mondo, giusto? Non lo so, ma... O solo dove cresce la mimosa? Forse solo dove cresce la mimosa. Allora, intanto Alvaro Parma su Twitter mi twitta per 8 marzo, redazione apri le orecchie, brano No Woman No Cry eseguita dai The Fugees. Ma magari no, Fugees, direi insomma. Forse veramente troppo banale, però è una rielaborazione, esecuzione da parte di un gruppo che tanto io non conosco. Di sole donne, speriamo. Di sole donne non credo, non lo so, comunque è un suggerimento che ci arriva, non so se abbiamo scelto questo come brano per il rientro dopo il giornale radio delle 10. Abbiamo sempre il nostro spazio musicale, anzi il nostro Si può fare in musica. Possiamo dirlo anche subito, twittateci, scriveteci su Facebook, mandateci la mail se siete più timidi, si può fare at radio24.it, e mandateci il vostro Si può fare in musica. Stai anticipando il mio momento, che è l'unico rientro che in tutta la trasmissione che faccio io è quello dopo la canzone delle 10, in questo caso il sabato invece alle 9. Ah, però allora a proposito di brani, a proposito di donne, io invece quasi Peter Bescapè in regia, se abbiamo la prontezza di recuperare Maria, l'ascoltatrice che cantava Si può fare in onda, è in cartella adesso, ci abbiamo un attimo di diciamo di vacanza in redazione perché Lorenzo Nespoli è andato a procurarsi il numero di un altro ospite, insomma stamattina si lavora Eccolo. Però intanto possiamo quando raccontarla, possiamo ricordare la nostra vera dedica alle donne è di, facciamola così, vai. Di Maria che della settimana di Sanremo ci ha regalato una cosa stupenda, ovvero ha scritto una canzone dedicata a noi, praticamente la nostra nuova sigla, una canzone che si intitola Si può fare. Ma e ha anche telefonato da, in radio mentendo sulla sua età, perché aveva paura di essere troppo anziana per essere ricevuta. Ho detto che ne ho 60 che se ne ho 83, perché sennò non mi fanno intervenire testuale. Esatto, dice Maria. È stato bellissimo. E ci cantò tutta la canzone. Però adesso ci ha scritto, e questa è la cosa bella. Ci ha scritto mandandoci tutto il testo. Grazie. Quindi, Maria. Maria, noi ti ringraziamo tantissimo, ti facciamo tantissimi auguri, perché sei le note la nostra donna preferita, possiamo dirlo oggi, che è la festa della assolutamente, donna. Assolutamente, una dolcezza infinita. Il foglietto con le note. Con le note. Io scritte di suo pugno sul pentagramma. Quindi non sarei in grado di leggervi le note. Ce l'abbiamo. Mi posso, ah sì, vi posso leggere che cosa facciamo sentire? Facciamo sentire. Si può fare il bene o il male. Ogni cosa si può fare. Chi sia bella, più bella del sole. Spettacolo stupendo, ricordiamo infatti anche... se qualcuno avesse la brutta idea di rubare questa canzone o di inciderla, ricordiamo che la splendida Maria Carletti ci ha pure mandato il suo codice SIAE. Giusto per sottolineare che questa canzone è registrata. La canzone poi va avanti, la seconda strofa è ogni cosa si può fare che sia bella, più bella del sole. E va avanti, così va avanti. Un inno alla gioia, diciamo. Sono 13 strofe, tra l'altro è stupendo anche che siano 13 strofe. Io non avrei mai fatto le 13 strofe, perché 13 penso che porti male, quindi in un si può fare. Invece lei, anticonformista, diciamo, anticonformista e contro queste superstizioni. Grazie Maria. Maria. Bellissimo. Ti abbracciamo molto. Allora, diciamo una cosa, una parola buona anche sul nostro gioco di oggi. Tra poco vi diamo l'indizio. Prima però vi voglio dire qual è il premio che facciamo anche oggi in collaborazione con l'Associazione dei Comuni Virtuosi, in occasione del loro bando per il premio nazionale dei Comuni Virtuosi. Se siete comuni che volete candidarvi, piccoli comuni soprattutto, per la mobilità, l'efficienza energetica, i rifiuti, buone pratiche, andate sul sito dell'Associazione dei Comuni Virtuosi, vi candidate e partecipate al premio. Il comune che vince anche tra l'altro un premio di 4.000 euro. In occasione di questa cosa i Comuni Virtuosi ci mettono a disposizione un premio, che oggi è un weekend presso il Borgo Riccio di Parma, Comune Virtuoso, perché 180.000 abitanti, l'abbiamo detto già anche l'altra volta, lo ripeto, raccolta differenziata porta a porta, sono arrivati al 70% di raccolta differenziata, che è un record per una città grande in Italia, assolutamente. E poi, va bene, l'acqua del sindaco, insomma l'acqua pubblica in tutte le scuole della città con evidente risparmio, bonifica dall'amianto di tutti gli edifici pubblici della città. Questo è Parma che oggi ci offre il premio. Però bisogna dire che uno va lì a fare il weekend, deve portarsi anche un trolley più grande, perché la spazzatura se la deve riportare a casa, direi, perché loro giustamente riciclano il 70%, non è che puoi avere anche l'ospite che arriva e poi ti butta la cartaccia in terra. Questo è l'unico, diciamo, è l'unico controindicazione che c'è andando a Parma, non potete sporcare. Allora, oggi, lo dico sempre io, il primo indizio, quindi vado, il personaggio della settimana che andiamo cercando ha, indizio numero uno, ha avuto problemi con l'estrema destra. Lo ripeto, ha avuto problemi con l'estrema destra. Aguzzate l'ingegno e chiamateci all'800 24 00 24. Siamo il capitano che vi fa l'inchino. Siamo la ragazza nel bel mezzo dell'inchino. Siamo i trucchi nuovi per i maghi vecchi. Siamo le ragazze nella sala degli specchi. Siamo il culo sulla sedia, il dramma, la commedia, il facile rimedio. Siamo l'arroganza che non ha paura. Siamo quelli a cui non devi chiedere fattura. Siamo il sale della terra. Della terra. bottega, siamo le figure, dietro le figure, siamo la vergogna che fingiamo di provare. Siamo il culo sulla sedia, la farsa, la tragedia, il forte sotto assedio, siamo la vittoria della tradizione. Siamo furbi che più furbi di così si muore. Siamo il sale della terra. Siamo. Nella settimana in cui c'è stato l'ennesimo rinvio del DDL anticorruzione, la corruzione, insomma, per chi non se ne fosse accorto, è il grave, l'unico vero, grosso forse problema che l'Italia dovrebbe affrontare seriamente, anche per quanto riguarda la possibilità di investire da parte di aziende straniere in Italia. Ce lo diciamo mille volte, però poi la cronaca è piena di casi di corruzione, ma insomma le galere sono vuote di corrotti, questo dicono le statistiche. Allora, rinvio del DDL anticorruzione, divisione nel governo sui tempi della prescrizione per quanto riguarda i reati di corruzione. Tempi di prescrizione che si allungano per evitare proprio i colpi di spugna. È già avvenuto qualche anno fa con la Severino, legge Severino, da 4 a 10 anni. Adesso stiamo passando a 10 a 15. Il governo discute se arrivare addirittura fino a 18 anni. In tutto questo c'è una notizia: l'Agenzia delle Entrate si è dotata di questo strumento, la soffiata, la denuncia anonima. Il termine tecnico, soffiata. La soffiata. Perfetto. Anche se in inglese c'è anche in questo caso una parola per designare con un tecnicismo che io non vado neanche a pronunciare perché lo pronuncerei male. Ma infatti si inizia a sospettare, quindi, che tu sei contrario all'uso della lingua inglese. Perché non so l'inglese, perché, probabilmente, perché, sì, per probabilmente sì. Allora, c'è chi ha anticipato questo strumento e lo fa già da un po' di tempo, il Comune di Milano. Noi abbiamo convocato, e la ringraziamo per essere con noi di domenica mattina, Ilaria Musicò, segretario generale del Comune di Milano, responsabile anticorruzione. Benvenuta. Buongiorno. Insomma, tra l'altro parliamo del segretario generale del Comune di Milano, cioè di una persona che ha in mano un po' la macchina, no? Più importante forse addirittura un sindaco ombra. Adesso non voglio esagerare, però insomma. No, ma assolutamente no, però diciamo che le responsabilità non mancano. Le responsabilità non mancano, è un ruolo delicato perché è un po' il capo dell'amministrazione del comune. Esatto, deve fare un po' il capo dell'amministrazione, ufficialmente il sindaco. Sì. Però noi della purtroppo tanto vituperata burocrazia diamo una mano a risolvere, a declinare, certo, tutte le decisioni. Poi, che prende, esatto, l'amministrazione. Superata quando le cose non funzionano, ma se le cose funzionano sì, bisogna anche fare noi tanti complimenti. Esatto, allora, devo dire che sì, Milano ha una bella tradizione al riguardo, onestamente, dai tempi di Maria Teresa d'Austria, diciamo, quindi secondo me la tradizione conta. Va bene. Maria Teresa d'Austria era il segretario generale, giusto? già all'epoca. Non lo so. Questa è una notizia. Però questa è una notizia. Aveva un collaboratore, non ho dubbi al riguardo. Il catasto è ancora il suo, quindi, come si sa, a Milano quantomeno. Allora, però andiamo con ordine. Allora, io ho citato, perché la notizia di questa settimana è che l'Agenzia delle Entrate, insomma il fisco italiano per i suoi dipendenti, sì, ha adottato questo sistema della denuncia anonima, persone che timbrano il cartellino in maniera irregolare, oppure pacchi, regali che arrivano in ufficio e non dovrebbero arrivare, pratiche che vanno e vengono. È questo che voi avete adottato già, credo, dal mese di gennaio, notizia che è uscita insomma qualche tempo fa e che parlava proprio del Comune di Milano che si dota di questo importante strumento anticorruzione. Sì, la parola vituperata, come dice lei, non l'abbiamo usata neanche noi, sarebbe whistleblowing, che è una parola inglese. Noi l'abbiamo chiamata nel nostro piano anticorruzione segnalazione di condotte illecite, che è una tradizione italiana forse troppo burocratica, però anche a noi preferiamo usare l'italiano, diciamo, negli atti, almeno negli atti pubblici. Quindi è vero, l'abbiamo adottata, cioè è entrata proprio in vigore materialmente nel mese di gennaio. Ha avuto una gestazione un po' lunga perché il piano è del gennaio dell'anno precedente, però è stato un tempo necessario, diciamo, in quanto abbiamo voluto costruire, mi interrompa pure quando vuole, abbiamo voluto costruire una piattaforma, ma noi siamo interessati. Informatica. Ecco, beh, grazie. Abbiamo voluto costruire una piattaforma informatica, diciamo, sì, su cui appoggiare queste segnalazioni per renderle veramente anonime. E siccome uno dei must della legge anticorruzione è di non spendere molti soldi per avviarla, e questo lo trovo, quindi non ricorrere a soggetti esterni, a formatori, certo, perché potrebbe essere, non sprecare, diciamo, denaro pubblico, esatto, per fare cose che si possono fare, potrebbe essere il circo mediatico anche dell'anticorruzione, come dire, sì, e non creare nuova corruzione per l'anticorruzione, esatto, cioè fare un bel appalto, bravo, per un'organizzazione, esatto, anticorruttiva, ecco, mi ha capito perfettamente, per cui l'abbiamo veramente fatta in casa. Ovviamente Milano è dotata di un centro informatico potente, uh-huh, non lo, senta, potrebbe fare, quindi diciamo un'elaborazione di questa piattaforma, sì, cercando anche di farla internamente, sito, ecco, sì, internamente, di risparmiare, si va sul sito, sì, sì, mi dica. Ecco, la domanda sì, è questa, sì, quindi c'è una piattaforma interna che a cui i dipendenti della pubblica amministrazione possono accedere per segnalare che tipo di cose? Ecco, per segnalare si dice qualunque condotta illecita al di fuori dei casi di diffamazione e calunnia, cioè se io dico che un mio collega ha commesso un reato non è vero, già commetto un reato io. Quindi si può segnalare sia una irregolarità, cioè qualcosa che mi ha fatto un collega, una promozione ingiusta, un concorso a cui ha partecipato, oppure di aver visto veramente dei fatti che possono costituire reato, cioè in una gara ho visto che un presidente della gara, per dire, era al bar 5 minuti prima, certo, con quello che poi ha vinto, esatto, eccetera, parlava che poi ha vinto, oppure gli ho visto passare dei documenti, cioè questo è proprio un classico, oppure nell'erogare un contributo ha preferito una persona piuttosto che un'altra. Ci sono centinaia di casi, decine e centinaia di casi possibili. Esatto, volevamo capire anche, sì, che tipo di casi sono, nel senso che un conto è, diciamo, segnalare un'ipotesi di mazzetta, un conto è uno che dice il mio compagno di ufficio stampa con la stampante del comune la tesina della figlia, perché anche questo, se vogliamo, certo, però certo, diventerebbe una irregolarità più piccola che viene sanzionata diciamo internamente. Ma anche questo tipo di cose vengono segnalate? Sì, sì, sì, vengono segnalate e vengono filtrate. Questa è un'altra novità del comune di Milano che è stata fortemente voluta dal Consiglio Comunale, che ha approvato un ordine del giorno in questo senso. Viene filtrata da un comitato di garanzia, cioè nel senso che da chi è composto questo comitato di garanzia? È composto da tre componenti, due esterni che sono i presidenti di due associazioni famose in Italia e nel mondo, uno si chiama Transparency International, certo, certo, ed è il loro presidente che ne fa parte, e l'altro è Avviso Pubblico, che è altrettanto nota nel campo del contrasto alla mafia. Il cioè loro terzo, vagliano sì, tutti i casi, tutte le segnalazioni, per garantire maggiormente l'anonimato e, diciamo, renderlo terzo rispetto all'amministrazione. Assicurano questa terzietà perché la stessa amministrazione interna coinvolta potrebbe, vado per eccesso, insabbiare, certo, diciamo che le abbiamo pensate tutte in qualche modo. Quante segnalazioni avete avuto fino adesso? Ecco, per la verità non tante, la cosa adesso è partito da gennaio, però ne mesetto, abbiamo avute 5, sì, un mesetto ne abbiamo avute 5-6 che sono già state esaminate da questo comitato. Sì. Vuol dire che insomma tutto fila liscio al Comune di Milano, oppure vuol dire sì, che no, non ho un'opinione in linea di massima, sì, come dicevo il Comune di Milano ha, non vorrei essere smentita a breve, ma ha una grande tradizione di orgoglio, sì, aziendale, diciamo, in particolare tutto il mondo degli appalti pubblici è presidiato molto bene dal Comune di Milano. C'è una direzione centrale composta da diciamo un centinaio di persone che si occupano degli appalti, che filtrano tutte le offerte, quindi abbiamo il problema delle offerte anomale che è regolato interamente dalla legge, ma il Comune di Milano le esamina con una cosa da certosino. Devo dire poi tutti i progetti per esempio delle opere pubbliche sono messi sul sito, quindi non c'è bisogno di chiedere il progetto, che potrebbe sia essere costoso che dare luogo a diciamo interlocuzioni tra il comune e l'azienda interessata. Che succede però nel momento in cui la segnalazione diciamo diventa interessante, viene filtrata, arriva a me, sì. Okay, e arriva naturalmente al sindaco, perché il comitato di garanzia risponde direttamente al sindaco. Sì. E si fa un'indagine interna, che cosa si fa? Sì, si fa un'indagine interna in questo senso. Innanzitutto, se è una cosa plateale, quindi è un reato, non c'è neanche bisogno di far uscire allo scoperto il segnalante, perché facciamo noi la denuncia direttamente. Se è una cosa tipo anche a tutela proprio di chi ha fatto la denuncia. Cioè, diventa il comune stesso che si espone nella causa. Esatto, okay. Perché noi la cosa principale è appunto abbiamo criptato il nome, eccetera, è tutto criptato proprio per favorire, da una parte favorire la segnalazione e dall'altra proteggere la persona che se no nei confronti del collega o del superiore sarebbe spacciato tra virgolette, naturalmente verrebbe magari considerato un paria, quindi questa cosa noi penso di averla raggiunto. Bene. E quindi insomma parte o un'indagine interna o addirittura direttamente una denuncia nel caso si tratti di un reato. Se invece come dice lei avesse usato la carta del comune per la tesi piuttosto che il telefonino, in quel caso noi abbiamo anche come tutti Italia un codice di comportamento, non possiamo ricevere per dire regali superiori ai 150 euro in un anno eccetera eccetera, pubblicato nel sito del comune, ogni dipendente assunto deve sottoscriverlo, quindi parte un procedimento disciplinare che va dal rimprovero fino alla sospensione fino al licenziamento. Ma mi scusi, casi più gravi. Ma come mai secondo lei sono così poche queste segnalazioni, nel senso che da un lato giustamente lei dice c'è una tradizione anche di una certa eticità, però possiamo dire che perlomeno con Expo questa tradizione inizia a vacillare, così per dire. Guardi, è una domanda che mi fanno tutti, perché Expo non si è dotato per esempio, perché di questo Expo strumento, non ha adottato sì, è vero. Questo strumento, perché sarebbe stato ingolfato forse. Non lo so, ma rispondo che c'è il dottor Cantone che è il presidente dell'autorità nazionale, secondo me vigila alla grande, come vedete. Ecco, io ma quindi penso perché che... poche segnalazioni secondo lei? Perché è l'inizio? Guardi, perché bisogna rodarsi? Non ho un'opinione, secondo me sono prudenti, stanno a vedere che cosa succede, magari all'improvviso si scatenano. Ecco, noi ce l'abbiamo messa tutta. Diciamo che può anche essere un deterrente al di là poi dell'entità, della quantità stessa delle segnalazioni. Sapere che questa cosa è possibile può anche essere un deterrente per chi vuole fare il furbetto. Forse stanno anche verificando che veramente ci sia questa anonimicità. Quindi dire, c'è una certa prudenza nel burocrate, tra virgolette. Perfetto. Ma credo anche, penso che sia questo, e poi sempre una paura iniziale. Bene. Però noi abbiamo messo addirittura a disposizione, per chi non avesse un computer, abbiamo messo a disposizione un totem anonimo, anche quello. Dove poter fare queste segnalazioni. Però bisogna andarci truccati, perché appena vedi che il tuo collega è andato al totem capisci che sta ero preparata, può fare altre cose da quel totem. Ah, perfetto, è anche un banco. Abbiamo pensato a tutto. La ringraziamo moltissimo. Buona domenica, segretario comunale di Milano e tanti auguri. E tanti auguri. Sì, 800 24 00 24, che cosa ne pensate di questo nuovo strumento di cui si dota la pubblica amministrazione, la denuncia anonima contro la corruzione? A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. E allora andiamo al numero verde 800 24 00 24, da dove ci ha chiamato Cesare da Latina. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo dare la risposta al personaggio. Ah, vediamo, sentiamo, sì, anzi. Per me è Battisti. Battisti Lucio? Battisti... O Cesare? No, perché Cesare credo. Che sta in Brasile. Sì. E non gli hanno rinnovato cos'è, il permesso, il visto, cos'è. Hanno dato l'estradizione, la possibilità di estradizione, se la possibilità, sì, di estradizione. Ha avuto, esatto, un problema con un documento. Questa sarebbe la notizia. Però non era lui. Non la era notizia lui. C'è, ma non è il personaggio che abbiamo scelto. Non era lui. Grazie, grazie Cesare. Grazie mille. Posto. Cesare, che si chiama tra l'altro come Battisti. Nunziata da Roma, buongiorno. Buongiorno. Per cosa ci aveva chiamato Nunziata? Io ho chiamato per dare la risposta. Secondo me, così, d'impulso mi è venuto Tosi. Flavio Tosi. Perché? Per il fatto con Salvini, per tutte queste cose. Ha pensato a lui, perché insomma sì, un po' su questo rapporto con l'estrema destra nella Lega, sì, si discute, perché tempo fa era stato Tosi ad essere appoggiato dall'estrema destra a Verona, adesso invece Salvini è sceso in piazza con Casa Pound e dice che Tosi fa un po' il moderato. Però non era lui, non era neanche lui la risposta esatta. Grazie Nunziata. Grazie mille. Flavio Tosi. Sta prendendo il gioco. Sta montando. Tra poco daremo un secondo indizio. Andrea da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Benvenuto. Grazie. Una domanda molto semplice sul, sì, whistleblowing. Sì. Volevo chiedere. Però la fa a noi, ma noi non so se saremo in grado di rispondere. Il segretario comunale non c'è più con noi. Comunque, mettiamola lì nell'etere questa domanda, perché è una cosa anche molto tecnica e nuova, tra l'altro. Per cui, sì, qual è la domanda? Perché mi pare che ci siano casi in cui il nome del denunciante possa venire fuori. Ah. Sì, perché si perderebbe l'anonimato, che non va bene, sì, lei dice. Io vorrei sapere se ci sono casi in cui il nome del denunciante può venire fuori. Che lei ha fatto una denuncia e teme di essere scoperto, no? No, a sentire quello che ci ha spiegato il segretario generale, non esiste assolutamente questa possibilità. L'unica cosa che lei sosteneva era se le prove, diciamo, sono evidenti, è lo stesso comune che parte con la denuncia, quindi il nome non verrà mai fuori. Nel caso in cui il denunciante diventa un testimone, nel momento che parte un processo, c'è caso che sia coinvolto nella questione dell'inchiesta, però solamente in un secondo tempo. Quindi io non credo che ci sia nessun problema sulla questione dell'anonimato. Beh, però se viene fuori come testimone, capite che io questa cosa del testimone però non l'ho capita così, tu l'avevi capita così, Carlo? No, può essere che gli venga, nel senso che se è l'unico testimone, può essere che in un secondo tempo, nel momento che parte un processo, che gli venga chiesto alla persona che ha denunciato. Ma lei però, ha detto così il segretario comunale? Lei ha detto nei casi in cui è evidente parte il comune, sì, a quel punto, e questo me lo ricordo anch'io. A quel punto, diciamo, il delatore non è necessario, e però questo presuppone che esistono altri casi in cui forse. No, secondo me non è così. Il nome è criptato. Ma il nome, quindi, è certamente criptato. Non è... Il problema è se nel no, momento non sarebbe in cui parte non. Un processo. Parte una denuncia penale, ci sono dei fatti da accertare. Quindi, se come si faceva l'esempio prima, no? Se c'è stato un passaggio dei documenti prima della gara. Chi viene denunciato si dovrà pur difendere, no? Quindi vorrà, certo, sapere chi, cosa, quando ha visto. No, quindi... ma è il comune, in quel caso è il comune ad assumersi, diciamo, l'onere, sì, di fare la denuncia. Quindi chi è allora, denunciato se la vedrà col comune. Sì, non ma poi con chi ha fatto la denuncia. Arriva. Il testimone arriva e poi quel povero Cristo di testimone deve comunque. No, no, io non l'ho capita così. Io non l'ho capita così. Per cui, però, può darsi che mi sbagli. Grazie, Andrea. Voleva dire qualcos'altro anche? Niente, è tutto qui. Tutto grazie. Qua, va bene, grazie. Io non l'ho capita un così. Un SMS che dice: al comune di Milano poche segnalazioni perché tra cani non si mordono. Ci scrive Giuliano da Roma. Così è l'antica lotta Roma-Milano. È un'interpretazione classica. Anna da Salerno, buongiorno. Buongiorno a te, ciao, saluti a tutti. Buongiorno. Salve, sono un dipendente pubblico. Sì. Ho lavorato all'estremo nord-est. Dove? Al sud e al centro. Ho lavorato a Trieste, ho lavorato a Napoli, ho lavorato a Roma. Facendo che tipo di lavoro? È un pubblico dipendente. Si può specificare? Scuola? Magistrato? la seconda che ha detto. La seconda, perché insomma chi fa queste carriere o è scuola o è magistrato o qualcosa del genere, oppure nella sanità. E quindi diciamo nel campo della magistratura, avuto, per cui io un magistrato. Sono stata costretta a denunciare sì. determinate cose sì. avendo gravissime problematiche, solamente io, no, assolutamente. Cioè lei ha fatto delle denunce di casi di che cosa? Di corruzione? Delle denunce di comportamenti errati riguardo da parte dei suoi colleghi. Sì. Mm-hmm. Però non erano fatte in forma anonima queste denunce? No, erano fatte in forma scritta, in prima persona. Esatto. Di firma. E ha avuto dei problemi lei? Sono stata trasferita sì. addirittura in una parte dell'Italia per ben 8 volte in 8 diversi settori. Mm. È stata trasferita per 8 volte? Sì, in 3 mesi. In tre mesi ho denunciato la cosa sì. al mio capo sezione, ho denunciato la cosa, sono arrivata fin a... Cioè lei dice come ripercussioni per le denunce no, che lei aveva fatto. Non esiste proprio, non funziona proprio, non funziona. Mm. Ma non i casi di denuncia che poi lei ha fatto, sa come sono andati a finire, per esempio? Qualcuno... Insabbiati. Ma ad operare era, mi scusi la curiosità, ma ad operare è chi era? Il Consiglio Supremo della Magistratura? Parliamo di magistratura, quindi l'organo che indaga è il CSM in questo caso. Parliamo del ministro. Del ministro addirittura. Sì. Ho capito, però Anna, questo suo caso è un po' diverso da quello di cui parliamo stamattina, perché qui parliamo di denunce non anonime e nel suo caso anche, mi dispiace, se fosse così come lei dice, di ripercussioni, anzi è proprio per evitare questo, queste come dire, conseguenze negative su chi denuncia che debutta questo sistema innominato. Lei, se ci fosse stata una roba del genere, si sarebbe sentita più tutelata? Secondo me sarebbe venuto fuori lo stesso il nome, perché il team che poi va a analizzare queste cose e poi è costretto a chiamare in causa la persona, gira viene fuori il nome e ha un sacco di conseguenze. Ma mi scusi, diciamo che qua non siamo tutti eroi. No, lei mi sembra un eroe. Ma serve solo, proprio per quello il ma sistema. Ma mi tolgo una curiosità. Lei, scusi, veniva trasferita, appena arrivava in un nuovo posto faceva una nuova denuncia in quel posto lì. Sennò come mai veniva trasferita un'altra volta? Venivo trasferita perché facevo dei controlli, conoscendo il mio lavoro segnalavo le cose che non andavano bene, invece di sanare il problema anche senza sanzioni sanavano me, mi mandavano via. Ma tutto scritto, questa è la cosa che mi fa capire che le varie audizioni che hanno sì. fatto ai vari colleghi eccetera, poi tentavano di far del male a me che avevano fatto la segnalazione. Va bene, allora, Anna, mi dispiace per questo suo, diciamo, questa sua storia personale, se è così in bocca al lupo per il futuro. Però ripeto, il sistema di cui abbiamo parlato stamattina serve proprio per evitare che si creino casi come il suo, perché la denuncia è anonima, su questo non ci piove. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Scambio corto, limite dell'area. Contropiede, catenaccio, lancio per il cross. Doppio passo, rimane poeti. Finta e tiro, rosa terra per un pelo e gol. Stop al volo, zona Cesarini. Sganciamento e spinta dei terzini. Tiro nel sette magico pallone. L'urlo del campione. Squadra corte pressing, incornata scivolata, fallo tattico, punizione contro la barriera, disimpegno per il 10 che è scoppiato un po'. Viva il parroco, campo pesante, pallonetto e dribbling ubriacante, 4 volte azzurro in cima al mondo, il pallone tondo. La palla è rotonda, si gioca di prima e di sponda, rimbalza, si insacca, ti sembra una scia sull'onda. La palla è rotonda, un tocco di tacco che incendia, di collo, di piatto, di esterno, di mezza punta. espulsione. La corruzione non risparmia nessuno, nemmeno il calcio. Anzi, figuriamoci se risparmia il calcio. E allora, però, la notizia di questa settimana è che nasce e si fa attivo la possibilità di una class action contro il calcio scommesse. Parliamo, siamo a Bergamo, parliamo dell'Atalanta. Abbiamo con noi Maurizio De Lorenzo, che è il presidente pro tempore del comitato antiscommesse di Bergamo. Buongiorno. Buongiorno. E benvenuto. Buongiorno. Grazie. Allora, comitato che nasce un po' di tempo fa, ma che adesso sembra intenzionato, se i processi nei confronti dell'Atalanta andranno verso condanne certe, eccetera, di rivalersi contro calciatori, dirigenti coinvolti nell'inchiesta con una class action per avere indietro i soldi del biglietto, i soldi dell'abbonamento della Pay TV. Addirittura si parla del danno morale per aver creduto in che cosa? Sì, sicuramente stiamo procedendo in questo senso, stiamo attendendo appunto da parte del giudice indagini preliminari che concluda l'attività e quindi poi entrare come parte civile all'interno del processo penale. Noi ci basiamo soprattutto su una violazione presunta del diritto della passione calcistica, in quanto io penso che chi paga un servizio, paga un biglietto per vedere un incontro sportivo, sì, un incontro sportivo leale, senza nessun combin, nessun imbrogli, alla fine si senta è come se firmasse un contratto, no? E quindi se il contratto non viene esaudito, certo. Quindi per quello che ci basiamo anche sul danno morale effettivamente del tifoso, piuttosto anche effettivamente perché sborsando qualcosa, cioè, economicamente, vorremmo vedere qualcosa effettivamente leale. Quante adesioni state raccogliendo per questa possibile class action? Per il momento abbiamo avuto delle risposte via mail, delle intenzioni di iscrizione, e siamo arrivati circa a una 70-80 di persone attualmente che hanno intenzione di aderire, quindi poi dovranno passare formalmente, certo, a iscriversi dal notaio. Certo. Ma sarebbe la prima volta in Italia una class action di questo tipo contro una società di calcio, contro i calciatori? No, noi ci basiamo appunto anche su un precedente, che precedente di Bari, dove c'è stata, sì, anche lì una class action da parte dell'associazione dei consumatori, e alla fine difatti loro hanno avuto un risarcimento, a prescindere che siano stati degli abbonati piuttosto che 400 euro hanno avuto in quel caso. Esattamente, circa 400 euro a testa, ed erano in 270 persone che avevano aderito, quindi già un precedente a favore ce l'abbiamo. Ecco. Ma mi scusi, sono lo stupido dei due, ma la cosa che non capisco è, deve esserci prima, bisogna prima aver dichiarato una partita truccata, prima che voi possiate fare la class action, oppure dei cittadini possono mettersi insieme e dire secondo me questa partita è truccata? No, noi ci basiamo sulle indagini che sono state fatte dalla Procura di Cremona. Attualmente sotto indagine ci sono state 90 partite, e addirittura alcune dalle dichiarazioni anche di Doni, della partita, per dire, Atalanta-Piacenza, che addirittura c'era la combin tra lui e il portiere da dove poterlo tirare, quindi già su quella qualcosa di certo c'è effettivamente. Poi dagli atti, noi adesso abbiamo anche tramite i nostri legali acquisito i 72 fazzoni degli atti, quindi anche da lì entreremo proprio nel merito di vedere effettivamente, al di là dei 131 indagati, del fattispecie di ogni possibile combin che ci sia stata nelle varie partite. Ecco. Ma lei è un tifoso, no? Naturalmente era un tifoso, sarebbe un tifoso. Va ancora allo stadio? Sì, sicuramente. Quindi, diciamo, però, la voglia di seguire il calcio non crolla, però insomma vacilla. Sì, cioè, adesso c'è quel risentimento, quella presa di posizione abbastanza sempre così distaccata, perché non si sa mai se effettivamente su alcune partite ci sia la buona fede o se effettivamente ci sia, ma anche come è saltato fuori. A volte ci sono anche semplicemente delle partite orrende con dei giocatori che non corrono. Io mi chiedevo se anche per quello uno può fare una class action e dire ma porca miseria, ma tira sta palla. No, su quello, questo è più opinabile. La combina per la partita. Ma lei consiglierebbe anche ai tifosi del Parma ad organizzarsi per una roba del genere? Lì entriamo nel merito di un'altra fattispecie, anche perché effettivamente ci sono altre problematiche più, nel senso, più a livello societario, sì, interno, sì, loro, che quindi effettivamente tutti. Però anche lì ci sono partite che saltano, abbonamenti che pagati, sì, eccetera. Lì direi che è Sky stessa che ha detto: ragazzi, noi vi abbiamo dato i soldi per i diritti, sì, adesso in qualche modo Lega dovete andare in campo. Esatto. Sì, adesso sicuramente adesso, cioè, il campionato risulterà un po' falsato, secondo me, effettivamente, perché anche l'impegno dei giocatori, sapendo che comunque una società alla deriva, non so fino a che punto possa essere così impegnativo, cioè, finalizzato. Bene. Poi a vincere qualcosa. Dobbiamo salutarci, grazie mille a Maurizio De Lorenzo del Comitato Antiscommesse di Bergamo, l'Atalanta. Ci fermiamo, no? L'indizio lo diamo dopo, lo do. Dallo. Per lavoro spesso si trova a Venezia. Questo è il nostro secondo indizio del nostro personaggio della settimana. Dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. A dedication to all the refugees worldwide. One time. Say, I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. Abba softened the crookedness. As it mingle with the good people we meet. Good friends we had, oh, good friends we've lost. I say to my peeps who passed away, no woman, no cry. No woman, no cry. Say, oh, hey, little sister, don't shed no tears. No woman, no cry. Say, I remember when we used to rock. Project Yard in Jersey. And little Georgie would make the fire light as stolen cars passed through the night. And then we'd hit the corner store for roots, paper, and brew. My drapes, my only remedy for pain of losing family. But while I'm gone, shorty, everything is gonna be. E questa è Si può fare. Questa che avete appena ascoltato è No Woman No Cry dei Fugees. Questa celebre, come si dice, reinterpretazione che ci aveva suggerito, tra l'altro, esattamente, è il Si può fare in musica consigliato, segnalato dal nostro ascoltatore Alvaro Parma, che ci ha scritto direttamente sui Twitter, nostri social, sul nostro Twitter. Vi ricordiamo che noi stiamo sempre in cerca di un Si può fare in musica, quindi di una reinterpretazione di Si può fare con una canzone, che potete segnalarci sui nostri account social, per esempio su Facebook Si può fare trattino Radio 24 o sul nostro account Twitter Si può fare 24, oppure sul nostro account personale. Il mio è @ Carlo Gabardini e mio @ Ale Maurizi. Allora, ascoltatori, vi aspettiamo per giocare con noi al personaggio della settimana. Anche oggi in palio un premio messo a disposizione dall'Associazione dei Comuni Virtuosi. Parliamo in questo caso di un weekend al Borgoriccio di Parma, e abbiamo Viviana che ci chiama da Bologna. Ciao, buongiorno. Telefonavo per il personaggio della settimana, sì. Avevo pensato a Berlusconi, ma il secondo indizio mi ha spiazzato. L'estrema destra, sì, sarebbe il malleolo della sua gamba destra. Questa era un'ottima interpretazione. Soprattutto dell'interpretazione precisissima della notizia della settimana, del fatto che si è fatto male, sì, al piede. E che poi ha finito la condanna ai servizi sociali. Brava Viviana, c'era la notizia, c'era l'indizio, poi il secondo indizio l'ha spiazzata. Infatti, ahimè, per il secondo indizio, Viviana, non era lui. Ricordiamo è che per lavoro è spesso a Venezia, a parte che volendo anche Berlusconi, insomma, ci passa. Sì, c'era anche Grazie comunque per aver giocato con noi. Grazie, auguri, è una donna. Maria Elisa da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Devo dire il personaggio? Se quello vuole, che vuole, se vuole raccontarci. Mario Capanna. Perfetto. Sì. Perché? Perché nei 68 anni successivi ha avuto molto da fare contro la destra. E poi adesso perché non vuole cedere un centesimo dei suoi vitalizi. La seconda è la notizia, la prima è la però storia. Però la notizia diciamo, è già un po' più vecchiotta. Infatti devo dire che non era Capanna a cui avevamo pensato. Uh-huh. Quindi niente, Maria Elisa, grazie per aver giocato con noi. Devo dire che non era neanche tra i possibili, diciamo, tranelli, no? Il fatto di dire Capanna, non c'era proprio venuto in mente. Non ce l'aspettavamo, però siamo contenti che abbiamo dato un'altra notizia da un'ascoltatrice. E va bene, andiamo, dove andiamo? Gianni da Roma. Pronto? Non so se... Gianni? C'è un Gianni, ma è da Milano. Ah, allora ci hanno detto male, hanno scritto da Roma. Giustamente, invece, aspettava, dice, adesso dice... o mi sposto e vado a Roma oppure non rispondo. Roma, ovviamente. Prego, ci dica tutto. Niente, stamattina da una delle radio di casa mia, io ne ho una per stanza, tutte sintonizzate su Radio 24, che per me è la vera stazione di servizio pubblico. Sì, la ringraziamo. Grazie. In macchina, DAB, e mi congratulo con voi che finalmente siete passati dal mono al DAB. Siamo sul DAB, certo, come no, ci abbiamo lavorato, è una bella cosa. Sì. Bravissimi. È una dimostrazione che si può fare. Sì, anche questa. Ma lei comunque si era organizzato con una radio in ogni stanza, diciamo, in qualche modo aveva il suo impianto Dolby Surround. Una sola stazione, cioè il sintonizzatore potrebbe avere solo una stazione. Però Gianni, l'esordio è stato stamattina ascoltando Radio 24. Radio 24, ho sentito la responsabile del Comune di Milano, sì, che raccontava le sue esperienze, il fatto di... Il segretario generale. Sì, no, raccontava come e perché è stato introdotto il sistema della denuncia anonima per la corruzione, sì. E a un certo punto ha detto, certo, noi lo possiamo fare perché abbiamo delle strutture. Allora, dato che poi tra l'altro sono anche da 53 anni un informatico, sì, sì, vuol dire... Non è che, prima di tutto, allora, io sono milanese, sono lombardo, ma poi sono italiano. Allora, italiano vuol dire condividere le cose buone tra tutti i comuni, non vuol dire ognuno tenersi il suo, come purtroppo è il difetto. Ma perché Gianni, lei ha letto nelle parole del segretario comunale di Milano questo, diciamo, campanilismo, questo fatto di dire noi ce lo possiamo permettere, gli altri no? Io non credo, lei era orgogliosa di come lavora il Comune di Milano dal suo punto di vista. No, lei non l'ha detto. Però non esclude... No, lei l'ha detto come attenuante per, sì, altri comuni che non riescono a fare la stessa cosa. Vabbè, è chiaro, non tutti i comuni hanno uguale macchina. Perfetto. Sì. Ma se invece le risorse migliori venissero messe in comune, in rete, in rete, vabbè, non occorrerebbe inventare 27.000 applicazioni tutti, sì, uguali. Ah, ecco, adesso ho capito. Scusi, ci ho messo un po', stamattina non mi sono ancora svegliato. Lei dice un sistema del genere, una volta che... Tutte le cliniche... Mi faccia dire una cosa, Gianni, un secondo. Ho capito bene, lei dice questo sistema informatico, una volta fatto, andrebbe, diciamo, regalato gratis a tutti i comuni. In comune con tutti. Beh, questo è vero, ha ragione. Giusto. Ha ragione. Ma ci spieghi anche questa cosa? Lei ha detto faccio l'informatico da 53 anni? 53 anni fa lei ha inventato il computer, cosa ha fatto? Beh, potrei raccontarvi delle cose che però non so se capirebbero i... Io no, di sicuro. Proviamo, sentiamo. Guardi, allora, se parlo con qualcuno che capisce un attimo di bit e di byte, no, in realtà... dica Gianni, dica, sì, non si preoccupi, dica. 1964, dopo due anni di lavoro su organizzazione aziendale, sì, eccetera, sono passato all'informatica e lavoravo su... c'erano due grandi computer, una grossa azienda italiana, una multinazionale italiana, tanto per dire che non era una... L'Olivetti. Non posso dire il nome, se volete vi dico. Ma dica Gianni, dica. Vada tranquillo, parli, non si preoccupa, è tutto anonimo. Sono stato assunto nel 62 dalla Pirelli, venivo da Bolzano. Sì. Come un immigrato di quelli di adesso, con un letto in una camera, scarpe piene di muffa perché... Quindi lei alla Pirelli ha cominciato a lavorare all'informatica. Nel 62 mi sono occupato di metodi di organizzazione del lavoro. Nel 64, per un caso fortuito, visto che ho dato un consiglio a un esperto, non sapendone nulla, questo ha detto: vieni a lavorare con me nell'informatica. Dove? In che azienda? In Pirelli. In Pirelli, va bene. Pirelli. Grazie Gianni, in bocca al lupo. Grazie per questo suggerimento. Il suggerimento ci sta tutto, cioè il software una volta inventato è giusto, in effetti è vero, potrebbe essere regalato, adattato, insomma, a chiunque. Ma non credo che sia un problema di software, nel senso che bisogna avere dei comuni che No, però il problema, hai sentito la segretaria comunale, ha detto ci abbiamo messo un anno a fare la piattaforma perché non volevamo appaltarla all'esterno per spendere, quindi adesso per esempio il Comune di Milano, che insomma, ne avrà fatta una seria, solida, credo, potrebbe regalarla ai piccoli comuni che ne hanno bisogno. Giusto. Richiamiamo la segretaria settimana prossima. Comunque dobbiamo chiamarla perché abbiamo un sacco di domande. Sì, sull'anonimato o meno di queste segnalazioni, è importante. 800 24 00 24, traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sentiamo ancora un paio di ascoltatori. Va all'800 24 00 24. Questa mattina siamo partiti dal nuovo strumento di lotta alla corruzione di cui si è dotato il Comune di Milano già da un mese, ma di cui la notizia più importante è lo sta per fare anche l'Agenzia delle Entrate, una misura messa a punto dallo stesso dal capo dell'Agenzia delle Entrate, ma anche da Raffaele Cantone dell'Anticorruzione, che ha salutato questa cosa come un'ottima notizia. Noi ci siamo allineati, abbiamo voluto capire come funziona a Milano questa denuncia anonima. E quindi chi abbiamo? Eugenia, intanto, che ci chiama da Genova. Buongiorno. Eugenia? Non ci sente. Eugenia da Genova, l'ultimo appello? Boh, no, non niente ci sente. Ce l'ha fatta Eugenia da Genova. Allora, tra poco ne peschiamo altri ascoltatori, anche perché abbiamo il gioco. E allora, che facciamo? Diamo un altro indizio per cercare il nostro personaggio della settimana, per il quale chi indovina si porta a casa un bel weekend offerto dalla città virtuosa di Parma, Borgo, un weekend a Borgo Riccio. L'indizio che diamo è questo qua: il nostro personaggio ha a che fare con una automobile, con una macchina. 800 24 00 24. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia, tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Tu resti in questo posto italico, attento tu passi il valico, ma questa terra ti manda al manico. Mio, mare adriatico, io mio, vuoi respirare lo iodio, ma qui nel golfo c'è puzza di zolfo, che sta arrivando il demonio. Abbronzatura da paura con la diossina dell'Ilva, qua ti vengono qua più rosi di Milva, e dopo somiglia alla pimpa. Nella zona spacciano la moria più buona, c'è chi ha fumato i veleni dell'Eni, chi ha lavorato ed è andato in coma. Fuma persino il Gargano con tutte quelle foreste accese. Turista, tu balli e tu canti, io conto i defunti di questo paese. Dove quei furbi che fanno le imprese non badano a spese, pensano che il protocollo di Kyoto sia un film erotico giapponese. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia, dove la notte buia, buia, buia, tanto che chiudi le palpebre non le riapri più. Vieni a ballare, grattati le palle pure tu, che devi ballare. Con questo splendido Caparezza, perché siamo in Puglia, appunto, caro Carlo. A Lecce. Oggi c'è il sole, qua sembra di essere anche noi un pochino in Puglia. Noi ma siamo a Milano, ricordiamo. È sempre però una brutta sbiadita copia del sole pugliese. Ma no, oggi è una giornata bellissima a Milano, bellissima. Questo è un si può fare con il punto di domanda. Nascerà, sta per nascere a Lecce la prima università islamica italiana. A Radio 24 ne abbiamo già parlato tempo fa, ne ha parlato Alessandro Milan, perché è un progetto che insomma sta andando avanti. Ne parliamo con il suo ideatore, il presidente della Fondazione dell'Università Islamica di Lecce, Gian Piero Khaled Paladini. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, questo è un progetto che, di cui lei è ideatore e che sta facendo dei piccoli passi in avanti. Che è successo in settimana? È stato presentato proprio il progetto di questa università islamica a Lecce. Ci racconti un po'? Più che il progetto è stata presentata all'università, nel senso che il giorno 27 presso il notaio Tavassi è stata costituita la relativa fondazione, per cui il 28 in conferenza stampa abbiamo presentato l'università, il piano didattico, il piano formativo, sì, e il progetto architettonico del nuovo Ateneo. In che quartiere della città dovrebbe sorgere? Dunque, proprio prospiciente all'Ateneo dell'Università del Salento, Ecotecna. Sì. Quindi siamo nella cittadella universitaria, in sostanza. Perfetto. E che diciamo, aspetto architettonico dovrebbe avere? Quanto dovrebbe essere grande? Allora, abbiamo previsto per il momento 50.000 metri cubi, naturalmente di architettura moderna, su questo non c'è dubbio, che richiama anche un po' l'architettura araba, ma la cosa più importante è che al centro ci sarà anche una bellissima moschea che richiama le chiese cattoliche di stile arabo della nostra provincia e della Sicilia. Sì, una piccola moschea. Allora, intanto voglio dire una cosa io, perché uno dice, ma come una università islamica con la moschea, ma che c'entra la chiesa con la scienza, no? Certo. Per me non c'entra moltissimo, però insomma, io non sono credente, però ci sono in Italia università, per esempio, cattoliche, no? Dove dentro, certo, c'è la cappella. Diciamo, un'offerta formativa ad hoc, per chi? Per gli islamici o non solo in Italia? Quanti sono gli islamici, tra l'altro, in Italia? In Italia saranno milioni, ora io non so il numero esatto, perché io... Ma come, non ha le cifre? Lei che vuol fare l'università islamica non sa quanti... Io ho le cifre degli italiani, più o meno degli italiani preconvertiti all'Islam in Italia. Quanti siamo circa 100.000. 100.000. Comunque, ecco, tantissimi. Assolutamente sì, ma proprio per questo motivo nasce la necessità di avere un Ateneo italiano, sì, di ispirazione islamica. È la stessa identica cosa che è successa in Iraq ad Erbil, dove il Vaticano, proprio contemporaneamente a noi, avviava l'università cattolica in Iraq, per gli stessi identici motivi. Hmm. Senta, ma lei stesso ce l'ha detto, è convertito. Da quanti anni lei è convertito? Da 2 anni e mezzo. E questa conversione è avvenuta, c'è una ragione, un incontro con qualche ma cosa? Ma guardi, io per motivi di lavoro già frequento il mondo islamico da circa 10 anni, per cui questa frequenza poi ha dato i suoi frutti, per cui 2 anni e mezzo fa ho deciso di abbracciare la religione musulmana per vari motivi, insomma. E poi subito ha deciso di aprire un'università, nel senso che di solito... No, assolutamente no. L'idea è nata quando ancora non ero musulmano a Salemi, nel comune di Salemi, quando era sindaco Vittorio Sgarbi. In quel caso si parlò di un centro interculturale, sì, che doveva raccogliere, sì, un po'... Intervistammo Sgarbi su questa proposta. Esatto, e per cui doveva nascere qualcosa per i musulmani, qualcosa per gli ebrei e qualcosa per i cattolici. Dopodiché, come lei sa meglio di me, il comune fu sciolto per infiltrazioni mafiose, l'unico comune in cui il sindaco non era indagato, tra l'altro, quindi una storia anche questa curiosa, e il progetto ebbe uno stop. Però l'idea di fare un'università islamica non c'è mai passato per la testa, per cui abbiamo un po' cercato di capire dove, come e perché, fin quando non è arrivata l'occasione a Lecce. Poi io sono originario di Lecce, per cui insomma questo ha facilitato il tutto. Gioca in casa. Ma mi scusi, esatto, forse è una domanda stupida, ma mi chiedo, chi è che paga per fondare un'università? Per il momento stiamo pagando noi. Noi chi? Io sono presidente di una confederazione che si chiama Confime, Confederazione Imprese Mediterranee, sì, che porta le imprese italiane a lavorare nel mondo. In questo momento siamo impegnati in un grosso progetto in Kazakistan, per cui le imprese che credono fortemente in questo progetto come momento di apertura a un mondo che insomma è importante conoscere, stanno in questo momento finanziando le spese piccole, insomma, iniziali. Quanto costa fondare un'università? A regime l'università costerà, tra piano didattico, diciamo, e strutture, intorno ai 45 milioni. Ah. E invece per la gestione, considerando che abbiamo previsto 3 facoltà, costerà intorno ai 35 milioni. Mm-hmm. Beh, insomma, ci vogliono dei soldi. Non poco, naturalmente. Ma esatto, cosa ci guadagnano invece queste aziende? Perché è interessante capire. Cioè, lei è presidente di una fondazione, un gruppo, un consorzio, un'associazione di imprese che lavorano molto con l'estero, quindi sono a contatto con culture diverse, come per esempio la cultura islamica, e ritengono evidentemente che, diciamo, avere una testa di ponte, avere un collegamento, un punto forte, possa dare che cosa? Sbocchi, visibilità alle nostre imprese. Esattamente. Però in questo caso, ecco, diciamo che la fase iniziale è stata finanziata con pochi soldi, insomma, perché non è che ci sono voluti tanti soldini per fare la fase iniziale. Però è chiaro che da questo momento in poi io sarò da aprile in poi in giro per il mondo islamico per acquisire appoggi e sostegni anche finanziari per la realizzazione dell'Ateneo, che come dicevo prima sono 45 milioni e chiaramente le imprese però, non sono in grado di... Paladini, una domanda gliela voglio fare, perché insomma siamo nel pieno di una situazione geopolitica di crisi internazionale nella quale c'è l'avanzata dell'esercito islamico, dello Stato islamico, l'ISIS in Siria, in Iraq, c'è il caos in Libia, si torna a parlare, qualcuno dice un conflitto di religione, qualcuno dice un conflitto di civiltà, dice un conflitto di interessi, qualcuno potrebbe dire è anche sicuramente un conflitto di interessi legato da parte gli interessi e il potere, no assolutamente, c'è il petrolio, c'è tutto, però c'è anche di mezzo la questione della religione e della cultura. Lei come si sente? Lei come si sente in mezzo a questa situazione, cioè di agire in quale direzione? Nella direzione dell'incontro, della conoscenza reciproca, quindi di sciogliere questi conflitti, oppure di poter essere strumentalizzato in senso, diciamo, guardi, credo che ci sia poco da strumentalizzare in questo senso. Io ho avuto la fortuna in questi giorni di avere, insomma, questa connessione con l'Università Cattolica. Il Vaticano l'ha detto chiaro in Iraq: noi siamo qui per sostenere tutti i cattolici che in questo momento sono in fuga dallo Stato islamico. Bene, diciamo che anche noi siamo qui a Lecce in questo momento per sostenere tutti gli islamici che sono in fuga dalla Libia, dalla Siria, eccetera, eccetera, come primo obiettivo. Ma cioè, lei dice c'è un fronte comune, di tutti i perseguitati, perché questo è vero, bisogna dirlo, che l'ISIS non è che ammazza soltanto gli occidentali o i cristiani, anzi ammazza prima di tutto soprattutto i musulmani, che secondo loro sono eretici. Quindi lei dice un fronte comune di tutte le religioni, un fronte di civiltà, e quindi noi facciamo la nostra parte qua in Europa. Le dico di più, proprio questa concomitanza di iniziative bellissima, tra l'altro, noi la riteniamo sia un segno divino, un segno di Dio. Abbiamo lanciato l'idea di un gemellaggio tra la neonata Università Cattolica ad Erbil in Iraq, nel cuore del califfato islamico, va bene, e l'Università Islamica di Lecce. Sarebbe una cosa bellissima. Ma il Vaticano vi dà retta, vi ascolta, che dice? Questo non lo sappiamo, noi siamo pronti e abbiamo lanciato. Ma gliel'avete proposto? Adesso lo faremo anche ufficialmente, perché ci vogliono dobbiamo studiare bene l'iniziativa, ma tenga il telefono acceso, perché magari Papa Francesco le fa una chiamata. Forse è vero, sarebbe una cosa, e lei non pensa, sarebbe una cosa bellissima, no? Sì, penso di sì, credo di sì. Nate, proposte nello stesso giorno, guardi, è una cosa strana, a novembre proposta nello stesso giorno in conferenza stampa e avviate nello stesso giorno in conferenza stampa. Credo che sia una cosa assolutamente eccezionale, quindi approfittiamone, noi siamo pronti per fare la nostra parte. E se i cattolici, se il Vaticano, la Caritas, non so chi si occupa di questa storia, fosse disponibile, noi siamo pronti per fare questo tipo di operazione. Però scusi, non ho capito una cosa, il nesso che lei fa, questa proposta di gemellaggio sicuramente è suggestiva, però il nesso che lei fa, cioè nei paesi islamici o nei paesi dove è presente l'ISIS, c'è un limite alla possibilità di studiare in un'università islamica per i musulmani? Ma credo di sì, assolutamente sì, ma se lei pensa a quello che hanno fatto... Perché lei dice l'ISIS è nemico della cultura, non a caso butta giù le statue e distrugge tutto. Bravissimo, bravissimo. Tant'è vero che noi, tra le nostre facoltà, ci sarà scienze umanistiche. All'interno di scienze umanistiche noi stiamo istituendo un dipartimento speciale, che credo che avremo solamente noi, che è il Dipartimento della Bellezza, proprio per contrastare quest'idea dell'Islam, del Corano, eccetera, che sono contrari all'arte, alla cultura, eccetera, eccetera. Senta, ma insomma, adesso ha detto Salvini che vuol prendere voti anche al sud, no? Che non è più un partito a trazione settentrionale, ma un partito nazionale. Ha avuto contatti lei con... No, non ho avuto piacere, e quindi non credo che ce ne sia neanche la necessità. Io gli faccio gli auguri di cuore, che prenda tutti i voti che vuole al sud. Dico, questo non ci tocca. Lei non la condivide, però, diciamo, l'ideologia di Salvini? Ma guardi, per quanto riguarda la parte dell'emigrazione, no. per quanto riguarda il discorso dell'emigrazione, dei rifugiati, assolutamente no. Per quanto riguarda tutto il resto, sì. Ah, per esempio? Per esempio il suo rapporto con l'Europa, l'euro, eccetera. Tutte le critiche all'euro, all'Europa le condivide, sì. Assolutamente sì. Ma il comune di Lecce come non mi sembra molto a favore, cioè mi chiedevo se in realtà rischiate di portare voti a Salvini. Ma questo a noi interessa poco, nel senso che il comune di Lecce noi abbiamo fatto, ci siamo presentati non solo al comune di Lecce, ma noi ci siamo presentati anche all'Università di Lecce, ci siamo presentati al Vescovado di Lecce, ci siamo presentati a tutti, ci hanno ricevuto tutti, il sindaco ha deciso di non riceverci. Sì. Già, è l'unico che non vi ha ricevuto. È già un sindaco, no? Di una città dove nasce, dove è nata già un'istituzione così importante, credo l'unica in tutta Europa, così come l'abbiamo impostata noi, un sindaco che rifiuta il confronto, mi dica lei, insomma. E invece, ma perché il sindaco è un amico di Salvini, di quella zona lì, di quell'area lì? Ma non credo proprio. No. Senta, ma chi è il sindaco di Lecce? Ce lo dica lei. Perrone. Di che partito è? Paolo Perrone, credo di Forza Italia, credo, comunque sicuramente del centrodestra. Senta, ma invece il vescovo di Lecce cosa ha detto quando avete fatto questa proposta? Il vescovo, cioè... Allora, no, col vescovo ci siamo incontrati a novembre, sì, proprio in occasione dell'avvio dell'iniziativa, ed è stato solo ed esclusivamente un incontro di cortesia. Arrivavamo a casa sua, dal punto di vista religioso, era giusto. Voi siete stati cortesi, ma pure lui è stato cortese oppure... Assolutamente ha detto sì. No, grazie, non ci interessa. No, assolutamente no. No, è stato cortesissimo, abbiamo discusso una mezz'oretta di lezione. Cioè lei ritiene di poter dire che la Chiesa di Lecce è favorevole a questo progetto dell'Università Islamica? Non è, cioè la Chiesa Cattolica non può essere favorevole a un'Università Islamica. Perché però non può essere favorevole? Come no? Un luogo di integrazione, di cultura, non è, cioè la Chiesa Cattolica è più facile che sia la Chiesa Cattolica. Persecuzione nei confronti. Che comprende il fatto che l'istruzione... Io non posso smentirla. No, ma no. Perché lei non lo crede? Non crede che Chiesa Cattolica sia... Io credo fermamente che il dialogo ci debba essere, tanto è vero che noi abbiamo fatto questa proposta bellissima di ponte, no? Di gemellaggio, eccetera, sì, eccetera. Quindi più aperti di così non possiamo essere. Allora aspettiamo, vediamo un attimo... Però lei dice, non mi aspetto dal Vescovo di Lecce, no, come dire, un appoggio pieno, perché comunque stiamo pur sempre in concorrenza. È come se fosse uno che vende le auto Fiat e li costruiscono a fianco alla Renault. Questo lei dice. Così sembra brutto, però è questo, la sostanza è quella. Ma questo fa anche essere divertente la concorrenza. In realtà mi sembrerebbe più facile che sia un'altra istituzione religiosa che comprende che la cultura debba passare per una fede, invece diciamo uno stato laico potrebbe dire noi vorremmo che l'istruzione non fosse settoriale, quindi quella cattolica, quella cristiana, quella musulmana. Comunque Paladini, ne avremo da raccontare di storie sull'Università Islamica di Lecce. Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo. Grazie a lei. Arrivederci. Insomma è un progetto interessante, perché avete sentito, c'è dietro un consorzio di imprese, c'è dietro la possibilità di avere una visibilità anche nel mondo islamico per queste imprese. Ci sono poi cittadini musulmani in Italia che potrebbero essere interessati, perché no, a questa proposta formativa. Volevo chiedere se festeggiavano la festa della donna anche i musulmani, mi sembrava una bella domanda. Vabbè, ce l'abbiamo ancora Paladini, no? È caduto. Ti vengono sempre dopo in mente le cose belle, Carlo. Come facciamo? Sì. 800 24 00 24, torniamo tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini a tutte le donne. Angelo da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Che ci dice? Io volevo dire che il personaggio per me è Alonso, il pilota di Formula 1. Il fatto che si dice che ha perso la memoria recente, si ricorda assolutamente. Che quando guidava il Go-Kart ai tempi che era iniziato. No, la notizia è perfetta. Ci chiedevamo che problemi avesse avuto con la destra, Alonso. Sì, perché il primo indizio. Diciamo, il programma è in onda dalle 8:30 alle 9. E il primo indizio era questo. Non l'avevo No, beh, non c'è nessun problema. Perché magari aveva una teoria che ne so, sulle gomme di destra, che sulle ne so. Gomme di, o sul cambio a destra. No, va bene, grazie mille Angelo, non era lui. Grazie mille di aver chiamato, buona domenica. Insomma, c'è tutta una dinamica di evoluzione del personaggio della settimana, siamo al terzo indizio, e quindi che era a che fare con un'auto, però siamo partiti anche da autoproblemi con l'estrema destra e spesso a Venezia per lavoro. Questo è il quadretto del nostro personaggio della settimana all'800 24 00 24. Adesso andiamo in Toscana. Siamo coinquilini. Dividiamo il bagno e la cucina, dividiamo le sedie fatte in Cina, ci chiediamo se una casa interinale ci fa bene o male. Conviviamo in magica simbiosi, conviviamo ma non siamo appiccicosi, indecisi fra la vita liceale e quella coniugale. Non confondere l'affitto con l'affetto, siamo uniti per questa coinquilini di Davide Zilli. Vi ricordo che trovate tutti anche la playlist, insomma, di tutte le puntate di Si può fare sul sito di Si può fare, a radio24/si può fare, e perché vogliamo parlare in Toscana di una iniziativa sull'housing sociale, cioè sulla possibilità di dare case a chi ne ha bisogno, che ha alcuni elementi innovativi, di novità. In pratica la regione sta raccogliendo dei fondi per andare a recuperare alloggi invenduti, quindi insomma niente nuove costruzioni, niente nuovi ghetti, niente nuove case popolari, ma una soluzione diversa. Ne parliamo con Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana, assessore alle politiche abitative. Grazie per essere con noi di domenica. Grazie a voi, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. E auguri naturalmente 8 marzo, ci consenta. Altrettanto a tutte le donne. Allora, io ho fatto questa breve sintesi, mi sembra che questo elemento di novità ci sia, cioè niente nuove costruzioni, niente nuovi a volte questi mostri delle periferie che nascono, sorgono e poi diventano dei ghetti, ma andare a fare che cosa? Guardi, il provvedimento che voi citavate sull'housing sociale è il secondo provvedimento di questo genere che abbiamo fatto. Io già qualche mese fa ho portato in giunta una delibera come assessore alla casa, nella quale abbiamo messo a disposizione i 25 milioni che avevamo in bilancio per la realizzazione di nuovi alloggi popolari, li abbiamo destinati all'acquisto di alloggi già costruiti ed invenduti, anche per alloggi popolari. Facendo questa considerazione che in questo modo riuscivamo a raggiungere tre obiettivi. Il primo, quello di avere alloggi popolari immediatamente messi a disposizione, perché comprare l'invenduto vuol dire avere un alloggio già costruito a disposizione e non perdersi in procedure quindi di appalto. Quindi si fa in fretta, che spesso ci mettono 10 anni per essere certo. Terminate. Vuol dire comunque non consumare nuovo suolo, che per noi è un valore importante nelle politiche della Regione Toscana, e vuol dire anche provare noi. a dare una mano a tante imprese che vivono una difficile fase economica perché non riescono a vendere gli alloggi. In linea con questo provvedimento ne abbiamo fatto un altro e abbiamo costituito un fondo di housing sociale che invece va a rispondere a un altro tipo di bisogno abitativo, che non è quello delle case popolari, ma che è relativo a quella fascia di persone che, sebbene non abbiano i requisiti per accedere ad un alloggio popolare, non hanno nemmeno le risorse per trovare un alloggio sul libero mercato. Quella cosiddetta fascia grigia, diciamo così, che non riesce a pagare un canone di mercato, ma che potrebbe sicuramente pagare un canone calmierato. E allora siamo andati a costituire un fondo sul quale la Regione Toscana ha investito 5 milioni di euro, sì. Che però ne ha messi in moto molti altri, perché a questi 5 milioni della Regione Toscana si sono aggiunti 10 milioni dei privati, si sono aggiunti 26 milioni di cassa depositi e prestiti attraverso il FIA, e siamo ad oggi riusciti ad arrivare a 41 milioni di euro che hanno messo in moto circa 450 alloggi, che hanno messo sul mercato circa 450 alloggi, dei quali 330 in locazione a canone calmierato. Vuol dire un canone intorno ai 350-400 euro al mese, sì. Quindi un canone accessibile, sì, anche se certo, non un canone da casa popolare naturalmente. Posso aggiungere un obiettivo, perché lei ha ricordato tre obiettivi: avere alloggi, diciamo, abbastanza rapidamente, stop al consumo di suolo, quindi diciamo preservare anche il territorio e il paesaggio, e dare una mano anche alle imprese che hanno costruito in tempi di crisi e non sono riuscite a vendere. Forse un obiettivo è anche quello di non creare ulteriori ghetti con alloggi solo per case popolari, ma di mescolare anche questa offerta abitativa, è una cosa importante. Non c'è dubbio, e in questo sicuramente aiuta il fatto che comunque il costo degli alloggi si è un po' abbassato a seguito della crisi economica, e quindi il costo degli alloggi già costruiti diventa accessibile anche a un soggetto pubblico come la Regione Toscana, che acquista alloggi per metterli sul mercato a disposizione delle fasce economicamente più deboli. Non c'è dubbio che anche quello è un obiettivo importante. Quindi al momento 450 gli alloggi, di cui 330, se ho ben capito, dati in locazione, sì. In locazione. Circa questo fondo, oltre il 65% degli alloggi che riesce ad acquisire li mette a disposizione della locazione a canone calmierato. Naturalmente sì, il soggetto pubblico, in questo caso Regione Toscana, che ci mette 5 milioni di euro, diventa anche un soggetto importante per la definizione dei criteri da identificare per individuare i contraenti, quindi le persone che andranno a prendere in locazione l'immobile. Quindi, se ho ben capito, voi acquistate in pratica questi, avete acquistato con questi, sì, fondi. Questo fondo acquista alloggi invenduti e li immette sul mercato in locazione a canone calmierato. Il soggetto pubblico che è parte attiva di questo fondo, perché noi ci abbiamo messo 5 milioni di euro che a loro volta hanno fatto da moltiplicatore e hanno messo insieme altre risorse, e noi abbiamo l'obiettivo per la verità di arrivare a 150 milioni di euro, per adesso ne abbiamo raccolti 40, ma stiamo facendo costantemente incontri con fondazioni bancarie, con altri privati, per mettere in moto, diciamo, un meccanismo virtuoso di, sì, moltiplicatore per il quale questo fondo riesca ad implementare le risorse e conseguentemente ad acquistare sempre più immobili anche da procedure fallimentari o concorsuali. A questo proposito però mi faccio fare una domanda, mi metto nei panni dell'ascoltatore che comincia a pensare male perché, come diceva qualcuno, si fa peccato ma non si sbaglia, e magari pensa, sì, chissà quanto li pagano questi alloggi, tanto paga Pantalone, cioè paga il contribuente, il cittadino, e invece questi alloggi riuscite a strapparli anche a un buon prezzo, visto che si viene anche da una fase di crisi? Però le faccio la domanda, poi le chiedo di rispondere dopo la pubblicità, dopo il traffico, proprio perché c'è un momento di crisi del mercato immobiliare, strappate dei buoni prezzi, oppure insomma ci faccia qualche esempio di quanto si spende, insomma, al metro quadro in Toscana per un alloggio popolare di questo tipo, però dopo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo con la vicepresidente, nonché assessore alle politiche abitative della Regione Toscana, Stefania Saccardi, a cui la domanda è questa: quando la Regione va dal costruttore che ha delle case invendute e le acquista per farci degli alloggi popolari o di quella fascia di cui ci parlava prima, chi è che fa l'affare? La Regione o il costruttore? Noi abbiamo l'ambizione di farlo noi l'affare, naturalmente, ma anche di dare una mano ai costruttori che invece hanno tanti immobili lì fermi. Dunque, rispondendo alla domanda che lei mi aveva fatto prima, noi nella delibera per l'acquisto degli alloggi popolari abbiamo stabilito 1.700 euro al metro quadrato il prezzo di acquisto, che è di fatto il prezzo che la regione, cioè mi scusi, che gli enti gestori pagherebbero per la costruzione di nuovi alloggi popolari. Abbiamo fatto un conto e quindi abbiamo stabilito che questo era il prezzo, era quello che sarebbe costato a un comune, a un'amministrazione, sì, realizzare alloggi popolari nuovi, e quindi allo stesso prezzo ci siamo offerti di acquistare alloggi invenduti. È un po' il prezzo di costo del costruttore, sostanzialmente. È un prezzo medio, naturalmente, sì, dipende un po' dalle zone. È chiaro che nel centro di Firenze un immobile costerà di più rispetto ad un altro immobile sull'Appennino tosco-emiliano. Però certamente, se io ho costruito un immobile, piuttosto che non vendere, magari vendo alla regione e almeno vado in pari coi costi, non ci rimetto. Esatto, questa è comunque è un'ancora di salvataggio anche questa. Consideri che nel fondo possono confluire non solo risorse liquide, ma anche immobili. Per esempio una banca, una fondazione bancaria che ha una serie di alloggi che magari non riesce a vendere all'esito di aste giudiziarie può benissimo confluire l'immobile anziché confluire le risorse liquide, e quindi anche questo può essere una modalità per reimmettere sul mercato alloggi vuoti, alloggi certo. venduti, e rispondere comunque a un bisogno abitativo. Però quello è il prezzo, diciamo, degli alloggi nuovi, e voi lo pagate per degli alloggi non nuovi, giusto? Ma ho capito male io? No, no, sono quasi tutti però in fase di ultimazione, di solito sono alloggi appena costruiti. No, diceva quelli delle banche, lei diceva le banche magari hanno degli alloggi iscritti, certo. Quelli non sono alloggi nuovi e voi glieli pagate a prezzo come se fossero delle nuove abitazioni, o ho capito male io? No, vengono pagati, naturalmente c'è un ente gestore, sono due cose diverse. Sulla parte che riguarda gli alloggi popolari, noi paghiamo quella cifra e ascoltiamo le offerte che ci vengono fatte e poi naturalmente le valutiamo, e quindi valutiamo anche le condizioni degli immobili prima perfetto. Di determinare il prezzo. E nell'altro caso, cioè nel caso del fondo immobiliare, c'è un ente gestore che ovviamente anche in questo caso fa le valutazioni del caso. Certo. Va bene, grazie per ora per essere stata con noi, buona domenica. Grazie alla vicepresidente mille. Della a voi, Toscana. A tutti gli ascoltatori. Per questo progetto di housing sociale, la cosa interessante, innovativa, insomma, ci sembrava l'idea una volta tanto di non andare a costruire nuove casermoni, nuove case, insomma, quando ce ne sono già di invendute, e quindi anche di mescolare, insomma, anche l'offerta abitativa, no? Perché ci saranno condomini nei quali ci sta tanti tipi di persone diverse, chi l'ha comprato normalmente, chi ha un alloggio popolare, e chissà che non sia una scommessa anche questa. Sì. Questo accade in Toscana. Sì. Allora, abbiamo ancora un po' di spazio, di tempo, e soprattutto dobbiamo assegnare. Speriamo che qualcuno indovina il personaggio della settimana. Floriano da Roma, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sa che l'ultimo indizio non sia stato decisivo. Prego, Floriano. Ma io ho appena acceso la radio, non avevo ascoltato gli indizi. Comunque, Harrison Ford. Perché? È perché con il suo monoposto un paio di giorni fa ha avuto incidente. La notizia c'è di sicuro. Gli indizi? Per indizi? I nostri indizi? Vabbè, insomma, ha a che fare con l'auto. Harrison Ford, evidentemente sì. Ha avuto problemi con l'estrema destra, lo sapeva? Quello ci quello è il primo indizio, perché nei film di Indiana Jones, sì, è lui, dai, vai, che siamo in chiusura. Cioè, lei ha avuto fortuna sostanzialmente. Ci interessava sapere se, diciamo, se era compreso il primo indizio, che era. No, io non li ho ascoltati proprio. L'avevamo capito. Perfetto. Ha avuto fortuna, ha sentito l'ultimo, si è agganciato a quello. L'ultimo indizio, che chiaramente è quello un po' più facilotto. È perfetto così, va benissimo. Bravo, vorrei che date gli auguri a mia figlia Josefina oggi, che deve fare un torneo. Lei è una campionessa di ginnastica ritmica. Come si chiama? Josefina. Josephine. Con l'H messa dove, che si sbagliamo di sicuro? No, la mette bene lei, non si preoccupi. Allora auguri a Josephine per il suo, insomma, campionato, per la sua gara di ginnastica ritmica. E a tutte le Josephine, diciamo, a tutte le donne, visto che oggi è l'8 marzo, in bocca al lupo. Va bene. Allora, senti, Federico Taddia, eccolo qua, ce l'abbiamo? Oh, ciao Fede. Ciao. Tutto bene? Sì, tutto bene, Fede. Sì, sei qua con noi. No, perché ti abbiamo tenuto un po' in attesa. Avevamo il personaggio, avevamo questo housing sociale della Toscana che ci stava a cuore. Avevamo cosa paura facciamo, di non però? Riuscire a trovare nessuno che indovinasse il quiz oggi. Ce la fai in un minuto a darci almeno una segnalazione di crowdfunding? Ma sì, ve ne do una. Parte dalla Germania, una nuova startup che ha lanciato l'idea di produrre il primo preservativo eco e sostenibile. Il silenzio parte. Certo. No, è perché hai solo un minuto, sennò io mi metterei a parlare per 40 minuti, ma non volevo rubarti tempo, scusa, vai. Vogliono realizzare un preservativo che veda appunto gli operai non sottopagati, perché c'è tutta una filiera produttiva anche per i preservativi, ci sono da loro ricerche operai sottopagati, soprattutto in Malesia, per ricavare il lattice. Scopriamo un mondo. E in più vengono messe sostanze chimiche che loro vogliono evitare. Quindi hanno lanciato questo preservativo, si chiama Heiron, per ora hanno raggiunto un 40% di sostenibilità, vogliono arrivare al 100%, ma è già in vendita in due taglie, da 54 mm e da 56 mm. Il packaging è quello di un sacchettino delle patatine, dentro invece trovi i preservativi o 7 o 52 pezzi. Usti, bellissimo. 7 o 52 mi sembrano due numeri, allora, molto interessanti. So che sulla taglia volevi provocarci, ma non abbiamo tempo. I link li trovate sul sito, li si può fare sulla pagina Facebook. Federico, noi ci risentiamo domenica prossima. Grazie per essere stato con noi. Se non ce l'hai equo, non si abbraccio. Fa niente, direi. E un ringraziamento anche doverosamente in chiusura ad Andrea Piana, autore insieme a noi del programma, Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone in redazione, Lorenzo Nespoli in assistenza in diretta, siamo felici che sia con noi, Peter Bescapa in regia, Carlo Gabardini, Alessio Maurizi, ciao, e ciao a tutte le donne e anche a chi ci ascolta in podcast.